Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Accendiamo la mente, spegniamo la paura, buongiorno, apriamo la puntata in diretta con l'hashtag che abbiamo utilizzato per tutta questa settimana nella finestra informativa sul coronavirus alle 10.45. Anche oggi vi aspetto, ma oggi utilizzate il 349-238-6666, mandateci i vostri messaggi, i vostri vocali. Intanto saluto il professor Giovanni Di Perri, professore di malattie infettive all'Università di Torino, consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere SIMI. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno Nicoletta, grazie a voi. Professore, per tutta questa settimana noi abbiamo lavorato al fianco degli esperti della SIMIT per rispondere a tutti i dubbi e alle domande dei nostri ascoltatori e per farci aiutare da voi, dagli esperti, a leggere i dati e a comprendere il vero significato delle parole, perché cittadino informato, cittadino non panicato. Ogni volta abbiamo aperto il nostro appuntamento con una buona notizia. Quale buona notizia ci porta, professor Di Perri? Ma quale buona notizia? Beh, insomma, di buone notizie in questo momento non ce ne sono tante. C'è da dire che c'è un sistema che è allertato ormai a livello mondiale, per cui è verosimile che molti in concerto stiano lavorando per limitare il contagio, che è l'obiettivo attuale. Questo, diciamo, c'è una presa di coscienza ormai planetaria su questo, e questo è una forma di difesa. Assolutamente, quindi siamo e lavoriamo in squadra. E passiamo anche ai successi della ricerca. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore del reparto di microbiologia clinica all'ospedale Sacco, un centro, come sappiamo, nazionale di riferimento per le bioemergenze. Professoressa Gismondo, buongiorno, grazie. Buongiorno e un buongiorno ai colleghi che sono in linea con lei. Grazie. I ricercatori del Sacco hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus, la ricerca continua. Cosa possiamo aspettarci in breve tempo? Beh, prima una precisazione. Al Sacco ci sono due laboratori di ricerca, quello diretto dal professor Galli e quello diretto da me. Il virus è stato isolato un po' in tutti i laboratori, anche nel laboratorio di Pavia e in quello che dirigo io da qualche settimana. Noi stiamo conducendo una ricerca diversa. In una rete nazionale stiamo cercando di mappare geneticamente il virus in modo da dare un supporto, soprattutto a livello istituzionale, di come il virus sia circolato in Italia e soprattutto in Lombardia. Quindi è un merito o demerito, non lo so, che non mi prendo, perché non è mio laboratorio. Il mio laboratorio l'ha isolato qualche settimana fa e sta lavorando su un'altra linea di ricerca. Professoressa, ma quello che voglio sottolineare con lei, con la sua presenza qui, è che la ricerca italiana è una ricerca d'eccellenza e sta lavorando. Assolutamente. Questo lo vogliamo Roma, dire. Roma, Milano e altre città di cui si parla poco hanno dei centri di ricerca che il mondo ci invidia e che mi auguro non ci catturi. Abbiamo la scienza e la conoscenza. Su queste due parole si è concentrato l'intervento di ieri al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 30° anniversario di Telethon. Lo ascoltiamo perché ci dà uno spunto di riflessione importante per la nostra puntata di oggi. La ricerca è uno strumento al servizio della comunità che va promosso e sostenuto in modo consapevole, nell'interesse di tutti. Oggi, di fronte alla comparsa di un nuovo insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate, che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. Professor Di Perri, a proposito di conoscenza, è importante informare, ma in questi giorni siamo anche invitati a spegnere un po' l'allarme, a ridimensionare, o meglio, a porre la malattia nei giusti termini. Questa è una malattia che non va sottovalutata, non va sopravvalutata, professor Di Perri. No, certamente. Ovviamente il due parole un attimo sul peso specifico di quello che ha detto il Presidente, perché forse spero si tratti di un cambio di rotta nel nostro paese, ma anche in altri, perché c'è stata un'epidemia di banalizzazione della conoscenza e della scienza negli ultimi anni. Importante, purtroppo. Sì, purtroppo importante. Quindi questo spero, di fronte a un fenomeno che in qualche modo, in qualche misura, e ora diremo anche per quali versi ci preoccupa, spero che ci sia un attimino una rivalutazione di una materia che per definizione è nelle mani di una minoranza, la minoranza che studia, la minoranza che se ne occupa, poi uno fa l'avvocato, fa il notaio, fa il panettiere, fa quello che vuole, però c'è chi si occupa di questo. Allora effettivamente bisogna un po' di più ascoltarli, lì il discorso dell'uno vale uno deve finire, perché si tratta di acquisizioni, vengono fatte con fatica, con un metodo che si è molto rinnovato negli ultimi 30 anni, certo, che quindi lascia pochi dubbi. Sul piano di quello che c'è da fare adesso, oggettivamente di tutti questi casi che ci sono e di quelli che purtroppo verranno, occorre dire c'è un segmento minoritario, grazie al cielo, che è in sofferenza e che per sopravvivere avrà necessità di cure intensive. Sarà quello il grosso dell'ingombro, il grosso del peso che questa epidemia porta nel nostro e in altri paesi, ovvero in questo momento, cioè in un giorno siamo passati per esempio da 56 a 85 pazienti in rianimazione. La rianimazione è un punto d'arrivo dove si possono, purtroppo spesso anche no, risolvere delle situazioni critiche e ne abbiamo bisogno normalmente per i traumi cranici, per gli interventi chirurgici, per tutto ciò che porta alla necessità di assistere in maniera intensiva un paziente. È chiaro che in questo momento c'è una domanda suppletiva che dovremo cercare di arginare reclutando nuove risorse, ma anche possibilmente col rallentamento del contagio cercare di diluire in un tempo più lungo, perché è nell'unità di tempo che se si concentrano troppi casi che il sistema va in deficit, ma se riusciamo a spalmarlo in un tempo un po' più lungo magari ce la facciamo. 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Voglio presentare anche il professor Giuseppe Pantaleo, ordinario di psicologia sociale, direttore di UniSR Social Lab, l'Università Vita Salute di San Raffaele di Milano, che è qui in studio con me. Professor Pantaleo, lei è uno psicologo sociale, a differenza quindi dei suoi colleghi che si occupano di psicologia clinica, il suo paziente, diciamo così, è la società intera. Abbiamo con noi la professoressa Gismondo, possiamo dire al professoressa Gismondo che lavora in laboratorio, che il suo laboratorio è la società intera invece, quindi è proprio la società come ciascuno di noi sperimenta le emozioni. Che diagnosi si sente di fare oggi del nostro paese alle prese col coronavirus? Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. La diagnosi naturalmente tra virgolette da psicologo sociale è quella di contagio sociale, no? È tipico nelle situazioni di incertezza di cercare di dare un volto, di spiegarsi, rendersi conto appunto e render conto di ciò, certo, agli stessi e agli altri di quello che sta succedendo. E proprio in situazioni di incertezza si dà si mettono in atto comportamenti imitativi, no? Per cui l'abbiamo visto per esempio a Milano nei giorni scorsi, abbiamo visto per esempio l'assalto ai supermercati, no? Qualcosa, certo, che ricorda l'assalto ai forni, anche se in maniera molto meno drammatica. Però ci sta anche questa paura. Adesso dobbiamo cercare di fare tesoro di questa esperienza, diventare consapevoli. La paura, se vogliamo, è fisiologica, può essere anche uno strumento di consapevolezza. Anche da questa esperienza stiamo imparando molto. Adesso lascio la linea, ma ritorniamo subito dopo insieme. 349-238-6666. Vi aspetto. La professoressa Gismondo, il professor Di Perri e il professor Pantaleo, il nostro psicologo sociale, rimangono con noi. Obiettivo Salute Weekend. Eccoci tornati insieme, accendiamo la mente, spegniamo la paura. Professoressa Gismondo, quanto tempo pensa sarà necessario per capire se le misure prese hanno avuto l'effetto sperato, cioè contenere il virus? Ce lo chiedono diversi ascoltatori che stanno mandando i messaggi al 349-238-6666. Beh, innanzitutto voglio dare anch'io una notizia positiva. Oh, mi piace. Ho appena controllato quanti tamponi sono arrivati questa notte, la prima notte che abbiamo un decremento sensibile di richiesta di tamponi. Questo vuol dire innanzitutto che la richiesta viene fatta più miratamente, cioè alle persone sintomatiche, e quindi abbassare il livello del panico, perché positivo non significa malato, anche se il positivo deve essere controllato per evitare di diffondere l'infezione. Penso che pochi ancora abbiano avuto il tempo di guardare le nuove disposizioni degli Stati Uniti, dove il CDC dice andiamo a controllare tutti, anche i non sintomatici, per cercare di controllare la diffusione del virus. Però sono due attività diverse: uno è la diagnosi del malato, uno è il controllo sul territorio. Quindi noi finalmente abbiamo avuto una notte più tranquilla. Oh, prof, mi piace. E questo ce lo portiamo a casa. Alla domanda che mi ha fatto, quando? Da un punto di vista epidemiologico, la prima osservazione più concreta possiamo farla dopo il 14° giorno. Ricordo che 14 sono i giorni di quarantena. Dopo il 14° giorno dal primo caso che abbiamo avuto all'ospedale di Codogno. A questo punto potremo sapere quanti si sono contagiati, quanti si sono ammalati, e in quella zona rossa, che è diventato un laboratorio di ricerca, potremo capire molte cose sulla circolazione del virus in Italia. Professor Pantaleo, invece lei che cosa ha capito, voi che studiate la società? Ma come si diceva prima, appunto, la paura è una reazione assolutamente fisiologica in queste situazioni ed è massima in condizioni di incertezza. Dopodiché c'è una legge che stiamo studiando da una ventina d'anni, in sostanza si riconferma in studi controllati di laboratorio e poi, come diceva lei, nel laboratorio più ampio che esista per noi, che appunto è l'intero pianeta, oserei dire, e la legge è tale per cui la paura aumenta in proporzione diretta ai tentativi di rassicurazione. Questo è un paradosso, no? Si parla proprio di intensità paradossale di questa emozione. Sì. Cioè, poi però più dici stai tranquillo, più si allarma. Esattamente, perché diciamo di facciata la persona reagisce con una simil tranquillità, perché appunto viene rassicurata. Però questa cosa abbiamo visto che a livello fisiologico e a livello poi di risposte soggettive non fa altro che aumentare la reazione di paura. Però la notizia positiva è raggiunto fino al raggiungimento di una certa soglia, perché la dinamica non è lineare. Una volta raggiunta questa soglia di rassicurazione, e la si può raggiungere con, appunto, sdrammatizzando e con messaggi che siano chiari, che siano univoci, quello che succede è che, oltrepassata la soglia di rassicurazione, le persone allora iniziano a credersi e a orientarsi appunto in maniera propria. Professor Di Perri, vengo a lei. Sono tanti messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, chiedono un po' delle previsioni, chiedono anche proprio dal punto di vista dell'infettivologo se le misure prese di contenimento sono utili e qual è il parere degli addetti ai lavori, dei medici che il virus lo stanno studiando, con il virus stanno studiando anche di prevederne le mosse. Professor Di Perri. Ma sì, devo dire sono utili, sono in corso, hanno una asimmetria, nel senso che c'è un focolaio principale e poi tutta una serie di estensioni periferiche. È utile perché, per esempio, quello che è stato fatto in questi giorni ci ha permesso di capire che esistono diffusori importanti, quindi capaci effettivamente di contagiare altre persone in una misura effettivamente importante, ma è anche vero che ci sono diffusori minori che magari circoscrivono in un piccolissimo perimetro e lì muore poi la diffusione, proprio perché sono diciamo in questo senso meno contagiosi. Questo è importante saperlo, perché via via che passano i giorni e impariamo un po' a classificare le forme di malattia, ma anche gli stati individuali associati al contagio di altri, beh, possiamo effettivamente, non dico fare previsioni, però arrivare a descrivere una dimensione per quello che sarà l'immediato. Faccio l'esempio, no? Sì. In Piemonte abbiamo avuto sostanzialmente dei casi che derivano in misura diretta o indiretta dal focolaio principale. Quello che in questo momento ci sta interessando è capire se nella nostra regione c'è una trasmissione in corso che deriva da queste due estensioni del focolaio lombardo, e al momento si lavora in maniera molto intensa per comprendere questo. L'impressione è che effettivamente siamo al di fuori del focolaio principale e che forse nella nostra regione le cose stiano effettivamente andando in maniera assai migliore e più promettente rispetto ad altre. Ecco, questo è quello che voglio dire, stiamo imparando un po' giorno per giorno. Professor Pantaleo, lei ha detto che può generare allarme quando la persona si sente dare dei messaggi rassicuranti, cioè non preoccuparti, sì. Paradossalmente. Ha generato anche allarme avere delle dichiarazioni che sono state percepite come contrastanti pur provenendo dalla comunità scientifica. Professoressa Gismondo, è poco più di un'influenza, invece altri hanno detto no. Su questo aspetto stanno arrivando molti messaggi, a chi dobbiamo credere? Non credo che però il tema sia da porre in questi termini. Professoressa Gismondo, e poi andiamo a sentire il nostro psicologo sociale che cosa ci racconta. Mi faccia fare la portavoce da parte dei miei ricercatori presso il presidente Mattarella, che è una delle poche voci isolate che ha gratitudine nei confronti di chi lavora nascostamente per la scienza e la salute della gente. Spero che questo ringraziamento mio personale e dei miei ragazzi arrivi al presidente. Detto questo, le opinioni dei ricercatori, degli scienziati sono tutte utili per poter arrivare sempre più vicini alla verità. Il confronto è una ricchezza. Qua io sono stata, e anche l'Ilaria Capua, quella che ha sostenuto e continua a sostenere che questa è una epidemia poco più grave, un po' più grave dell'influenza. In questo momento ci troviamo nella grande esploa dei positivi dei malati. Appena la situazione si stabilizzerà e analizzeremo i dati, credo che sia così. È una mia convinzione, sono pronta a metterla in discussione. Ma in questo momento noi stiamo analizzando la punta dell'iceberg, credendo che questa sia l'epidemia, sia la diffusione. Se allarghiamo moltissimo il denominatore, cioè la popolazione oggi positiva, vedremo che addirittura la mortalità possa essere reputata quasi inferiore all'influenza, ma non mi voglio spingere, appena superiore all'influenza. La differenza invece è di un altro tipo. Non abbiamo un vaccino in questo momento, quindi non possiamo proteggere i più deboli, ed è anche in termini numerici. Non potendo fare una vaccinazione di massa, certo, ci troveremo con un gran numero, ma numero non percentuale, che è diverso, di persone da assistere, perlomeno in questa prima fase. Ma devo dire che il sistema sanitario italiano è molto solido, sì. Abbiamo complimenti a livello mondiale e siamo sicuri di poter reggere e superare questa fase. Abbiamo un WhatsApp e poi chiedo al professor Pantaleo di registrare quanto appena ci ha raccontato la professoressa Gismondo per darci la sua lettura da psicologo sociale. Andiamo a sentire il nostro WhatsApp vocale. Buongiorno Nicoletta, ma è possibile che in Italia abbiamo, che ne so, 500, 600 casi e in Grecia 5, in Spagna 10, o in Francia 7? Ma io, mi sembra una cosa assurda, ma che siamo noi italiani più malaticci, più cagionevoli? Ma secondo me c'è qualcosa che non torna. Abbiamo passato questo WhatsApp che racconta e testimonia una domanda che si stanno facendo in molte. Abbiamo anche un file in cui il professor Ricciardi, che è stato recentemente nominato dal ministro Speranza consigliere per il coordinamento con le istituzioni internazionali, ha rilasciato proprio a Coffee Break sulla 7. Quello che sarà il destino di questa crisi sarà legato alle scelte che noi faremo, e non soltanto alle scelte che faremo noi in Italia, ma che faremo in tutto il mondo, perché vedrete che nelle prossime settimane sarà coinvolta tutta l'Europa, credo questa settimana la Germania e tra due settimane la Francia, quindi è l'unica possibilità, è quella che collaboriamo insieme. Professor Pantaleo, le ho dato un altro spunto. Dopo la professoressa Gismondo, anche l'avevano già anticipato che i casi in Europa erano in realtà la punta di un iceberg. Naturalmente i casi poi si diffonderanno normalmente, perché come mi insegna la professoressa Gismondo e anche gli infettivologi della CIMIT, il virus fa il suo mestiere di virus, quindi non ha confini. Che cosa le suggerisce? Adesso che ci saranno anche probabilmente, sicuramente altri casi in Europa, a livello italiano di società, che cosa prevede? Ma intanto non saremo più gli untori. È curioso perché gli untori erano in Cina in origine, per come ci sono state insomma comunicate le cose. Dopodiché abbiamo sperimentato noi in prima persona la chiusura delle frontiere e a questo punto ci troveremo in una situazione di malcomune mezzo gaudio, insomma, per metterla un po', per sdrammatizzare un po'. Io concordo, tornando a quello che ha detto appunto la professoressa Gismondo, intanto mi unisco ai ringraziamenti al presidente Mattarella, naturalmente, per l'appello a dare ascolto, insomma, a chi dedica magari un'intera esistenza vita alla ricerca. Ecco. E poi sono assolutamente d'accordo con la professoressa Gismondo rispetto anche al fatto che sia fisiologica una certa discussione all'interno della stessa comunità scientifica. Gli articoli scientifici hanno una struttura preordinata e la parte finale di ogni articolo prende proprio nome di discussione. Nella discussione si riassumono i dati e dopodiché li si valutano da prospettive differenti, e questo ogni serio scienziato lo sa, per cui non ci può essere l'unanimità a priori, perché il dato si interpreta a seconda di tutta una serie di fattori. Ecco, quello che voglio però aggiungere, che mi sento di aggiungere, è che comunicare poi notizie oppure comunicare i numeri, il comunicarlo va fatto in una certa maniera. Noi abbiamo proprio a San Raffaele un corso di laurea magistrale in Cognitive Psychology and Health Communication, in lingua inglese, e ci occupiamo esattamente di questo, perché oggi ci sono le esperienze, le capacità, c'è la tecnologia per farlo, e forse sarebbe Esatto. i primi commenti che sono stati dati proprio nei primi giorni, quando all'improvviso lo scenario è cambiato, non hanno tenuto conto della viralità della comunicazione sul virus. Professor Di Perri, quali sono secondo lei i messaggi che non sono arrivati nel modo giusto alla popolazione? Parliamo naturalmente dal punto di vista medico, sanitario, e che possono aver generato quindi confusione e in qualche modo delle ripercussioni. Stiamo parlando anche dell'impatto economico del coronavirus, ne parlano molte trasmissioni naturalmente qua a Radio 24, Il Sole, ma anche del danno reputazionale. Professor Di Perri, poi per la professoressa Gismondo, poi vi terrei a lungo, ma dobbiamo poi salutarci. Professor Di Perri? Ma le voci che sono molteplici, si rincorrono e tutto il giorno ci sono emissioni che ne parlano, ci sono vari attori che si esprimono. C'è stato, se vogliamo, un minimo di percezione, di contrasto a un certo punto fra quelle che erano delle direttive in corso e quello che è stato un cambio di rotta, per esempio sui tamponi, su quella che era l'esecuzione dei tamponi. Il tampone è uno strumento che può essere di diagnosi individuale oppure uno strumento di, come diceva la professoressa Gismondo, di salute pubblica, che può servire a mappare più o meno quelle che sono delle aree di contagio. Una cosa che c'è da dire è questo, cioè oggettivamente i fatti, no? Andiamo sui numeri, perché poi sono quelli che ci devono guidare. Se vediamo un messaggio caso, proprio professore finale, perché abbiamo giusto 30 secondi da portarci a casa. Ci vorrà molta pazienza, i prossimi giorni i numeri aumenteranno e aumenterà la sofferenza dei nostri sistemi. Cerchiamo di farcela con calma, senza diciamo mettere troppa pressione su quelli che sono i principali interlocutori in questa fase, gli infermieri e medici che sono in prima linea. Esatto, che anche solo per portare un bicchiere d'acqua a uno di questi pazienti devono vestirsi, ci mettono 10 minuti, è una procedura molto lunga. Questo è un aggravio di sforzo e in cui devo dire lo spirito di servizio che ho rilevato nei miei collaboratori è straordinario, come è stato all'inizio dell'epidemia HIV, come è stato in altre circostanze. Professoressa Gismondo, proprio un messaggio come un tweet. Allora, non confondiamo i positivi con i malati, le fonti ufficiali che poi tutti i giornalisti possono commentare sono solamente quelle emanate dal Ministero della Salute e si permette un sorriso. Un mio collega che si è presentato in Finlandia per un congresso gli hanno chiesto: Italia, ma dove, da dove vieni? Lui è un bergamasco e ha detto da Napoli per poter passare il confine, è tutto dire. Professor Pantaleo, allora... In conclusione, sì, ce la stiamo cavando? Sì, come abbiamo, sì, risposto? Perché tutto sommato in maniera fisiologica. Le immagini dei supermercati, sì, vuoti, ma sì, dopo però i supermercati non c'è stato vuoti, l'assalto c'è... ai forni, che era molto più drammatico nelle descrizioni del Manzoni. E direi in realtà che ce la siamo cavata egregiamente molto bene, forse abbiamo, ce la stiamo cavando bene, abbiamo degli anticorpi sociali che non scherzano nessuno. Avanti tutta, siamo una meravigliosa squadra, lavoriamo insieme. Grazie a Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica, Edoardo Lavezzari in redazione, vi saluto e ci sentiamo domani mattina. Buona giornata.